L'uccisore di un bambino visto anche da un fanciullo. 25 febbraio. Rividi ancora l'uomo che era venuto prima con Barbara, al terzo piano. Egli mi porse le mani, sulle quali vidi del sangue. Io, sei un omicida? Lui, sì, io, sei stato tu a ferire Barbara al capo? Lui, no. Io, chi hai ucciso? Lui, il suo bambino. Io, perché? Lui, l'eredità. Era il tuo bambino? Lui, no. Disparve. Egli indossa una divisa da cavaliere del XVI secolo, è un uomo ancora giovane, non mette paura. Mi fa effettivamente tanta pena con quegli occhi imploranti aiuto. Le cinque donne continuano a venire di notte, una di loro è eccezionalmente bella, tutte di un altro secolo. 1 marzo. Me ne stavo con Wolfram, venne l'uomo che deve aver visto pure il bambino, perché questi spalancò gli occhi con grande sorpresa. Purtroppo i miei testimoni sono soltanto lattanti, galline e gatti. Nota. Il sospirone di Eugenia, purtroppo solo lattanti, galline e gatti sono i miei testimoni, suona pieno di tristezza. È significativo il fatto che il piccolo Wolfram sia stato l'unico testimone oculare. Io, perché spaventi il bambino? Non voglio. Lui, egli vede più di te. Poi entrò nella stanza di N e io lo seguii per vedere se lei si accorgeva di qualche cosa. Lui stava di fronte a lei, ma quella non se ne accorse. Questi sono i momenti in cui io posso fare i miei confronti fra vita e apparizione. In questa fanno impressione gli occhi, che non sono mai così in una persona viva. In tutte le apparizioni gli occhi presentano la immagine del dolore. Anche la bocca è del tutto diversa che nei vivi. Nessuna persona possiede tanta asprezza. È evidente che le mie impressioni di giorno possono anche essere diverse, per esempio, i vestiti sono impeccabili, i bordi, i pizzi, tutto è come deve essere. Gli speroni e le catenelle sbattono e suonano al loro camminare, eppure gli altri non sentono e non vedono niente. 7 marzo. I cinque continuano ancora a venire, ma niente da fare con loro. Ma ecco che finalmente potei vedere anche i miei cari 11. Strano. Essi sono diventati ancor più piccoli, prima erano più grandi di me ed ora sono come bambini. 9 marzo. Ho visto di nuovo il cavaliere su al terzo piano. Io, ma dimmi, come ti chiami? Lui, il povero. Io, perché povero? Lui, guardami. Io, non vedo niente. Allora mi venne vicino, ma io non notai niente di straordinario in lui, solo le due mani insanguinate. Io, che cosa si può fare per te? Lui, lavami. Io corsi in fretta da prendere acqua santa, e lui attese quieto. Io versai dell'acqua santa sulle sue povere mani, e non potrò mai dimenticare con quale sguardo di riconoscenza si volse verso di me. Esse rimasero ancora sanguinanti, ma il suo viso divenne totalmente diverso. Io, va bene così. Poi ho recitato il De Profundis, e di colpo disparve. Adesso sono di nuovo contenta. Resta tuttavia sempre ancora qualche cosa di inspiegabile in questo fatto. Benché io avessi versato sulle sue mani una bottiglia quasi piena di acqua santa, sul pavimento non c'era una goccia. 11 marzo. C'era troppo rumore nella mia stanza, come se degli uomini con grossi stivali andassero intorno incespicando. 13 marzo. Accadde una cosa molto strana. Io stavo imballando dei bicchieri e quindi avevo davanti a me per terra della carta vecchia. Improvvisamente questa incominciò a volare, eppure non c'era un filo d'aria in stanza. Cercai di prenderla ed ecco che la mia mano incontrò un'altra mano. Fu una cosa tremenda. Scappai via perché mi prese una paura terribile. Sopportare una cosa che non si vede è veramente difficile. Ma allora io sono sempre immersa nel preternaturale. Non posso dire quanto tutto ciò mi opprima, a queste cose non ci si può abituare. 16 marzo. Ho visto a di due volte la dama, del tutto sconosciuta, dal vestito che indossa direi essere attorno al 1850.